Gli scorsi giorni una ragazza turca residente in Francia è stata malmenata e violentata dalla famiglia, marito e suocera in prima linea, per non aver indossato il velo islamico. Accusati di atti di tortura e di barbarie in sodalizio, tutti rischiano fino a 15 anni di carcere. Questo fatto di cronaca ci ha fatto venire in mente alcune importanti domande e a noi di Reporter Associati ci ha dato spunto per molte riflessioni. In un momento storico come questo, in cui l'Islam è diventato ormai sinonimo di terrorismo e la cronaca dei paesi europei trabocca di episodi di intolleranza nei confronti di tutto ciò che si pone tra noi e la diversità, le domande e gli interrogativi dovrebbero prendere il posto dei giudizi. Allora noi chiediamo: può l'emancipazione, qualora si tratti davvero di questa, imporsi per legge o per costrizione? E poi ancora, un volto velato, se frutto di libera scelta, è davvero molto diverso da scollature e gambe in mostra? Di contro, mentre intellettuali e femministe si battono per l'emancipazione della donna musulmana e quindi per l'eliminazione del velo dai volti delle donne islamiche, lo scorso 17 gennaio le strade di Parigi si sono riempite di manifestanti musulmane, tutte donne, che insieme ai loro compagni rivendicavano la libertà di scelta riguardo al velo. E quindi ci si chiede: ha senso ripetere che il velo è un segno di sottomissione? Ha senso, in un universo di valori entro cui tra l'altro vengono considerati segni di emancipazione la lingerie leopardata, la lap dance, il reggiseno push-up e il silicone per le labbra, continuare a convincere le donne musulmane a togliersi il velo per indurle alla strada dell'emancipazione occidentale? Sarebbe interessante aprire un dibattito. Se è più libera la velina di turno che balla su improbabili scrivanie, oppure Fatima, tutti ricordiamo quella donna musulmana di Ivrea che sarebbe stata anche disposta a svelarsi pur di lavorare nell'asilo nido di questo paesino del nord Italia. Sono queste le domande che, partendo dal fatto di cronaca, abbiamo lanciato ai nostri lettori, pronti a qualsiasi confronto e a qualsiasi riflessione. Denis Faticante, Reporter Associati per Amisnet.